fumando, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Questo ramo sto allenando, buonasera signore e signori, fuori gli attori. Mi conviene toccarmi i coglioni, mi conviene stare zitti e buoni, qui la gente strana tipo sbasciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sui bottoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori di testa, non tanto da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale quella rapide, questi uomini in macchina scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è più, ma se trovi il senso del tempo ti salirei dal tuo mio. E non c'è tempo di fermi, la naturale potenza dal tuo posto di vista del tempo. Senti le prese con la lucera alla schiena, mi cercherò quella che se vuoi fermarmi di terra, prova a tagliarmi la terra. Sono fuori di testa, non tanto da loro. Fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori.